nessuno di noi la conosceva, e era laureata in storia contemporanea, una tesi di padre su Peter Ventino, no? Noi la dirottavamo su sentieri che lei non aveva mai percorso precedentemente, quindi la costringemmo a mesi, anni, una fatica, anche dal punto di vista così dell'acquisizione degli strumenti fondamentali per la ricerca storica. Ora, per tutta questa sua fatica, è maturata, ha cominciato a andare per il mondo. Il secondo motivo, che di particolare interesse di questo libro è che è un argomento che tocca da vicino anche la storia di Trento, che investe la storia di Trento in questa tornata estremamente importante del Trento. E quindi è il nostro piacere, diciamo così, che questo libro delle luci che hanno accettato il tempo. Di qui la riconoscenza al professore Adriano Prossi dell'Università di Pisa, della professoressa Zanni dell'Università di Firenze, che ha accettato così generosamente di venire a partecipare e a iniziare questo seminario. Il professor Roger, che è di casa e quindi continuerà il discorso iniziato dai primi due relatori, infine è integrato il suo gruppo che ha seguito, diciamo, passo per passo la genesi della ricerca stessa. Basta, quindi la parola al professor Prosto e cominciamo con gli interventi che, diciamo, previsti, ci possono essere interventi da parte di tutti e di qualsiasi grado.